teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Vicond. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 18 settembre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Cari radioascoltatori, questa settimana proveremo a parlare di medicina e parleremo di un sistema intitolato GRADE, un sistema fondamentalmente di controllo di qualità in campo medico. Ci baseremo su una folta letteratura apparsa sia su BMJ sia su PLOS, ma soprattutto ci baseremo su un paper apparso qualche giorno fa su PLOS Medicine che ha come primo autore un ricercatore italiano. E al telefono lo salutiamo, il dottor Corrado Barbui, psichiatra presso l'Università di Verona. Buongiorno dottor Barbui. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottor Barbui, noi all'inizio abbiamo le classiche 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione. Se lei dovesse spiegare in 100 parole che cos'è il sistema GRADE, come lo spiegherebbe? Perché in effetti GRADE altro non è che un acronimo, ma acronimo di cosa? Il GRADE è essenzialmente una metodologia che alcuni ricercatori hanno sviluppato per costruire delle linee guida, ossia delle raccomandazioni che i medici possono utilizzare nella propria pratica clinica. GRADE vuol dire gradare, vuol dire misurare, e quindi ha a che fare con il misurare la qualità delle evidenze che permettono poi per l'appunto di formulare delle raccomandazioni. Perfetto, dottor Barbui, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di affrontare la struttura del sistema GRADE, quindi cercare di capire esattamente che cos'è il GRADE. Cercheremo ovviamente di analizzarla attraverso la letteratura che è uscita dal 2007 fino ad oggi. Il 2007 poi è la data in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha accettato il sistema GRADE come sistema di controllo. Mentre nella seconda parte della trasmissione cercheremo di analizzare meglio il suo paper uscito qualche giorno fa su PLOS Medicine e cercheremo di capire come il sistema GRADE possa essere usato non solo per la medicina comune, ma anche per la medicina in campo psichiatrico. Musica e poi torniamo in studio. Black Chrysler 71 slides by on the freeway. Suicide doors and a hole in the floor so you can see if you're enjoying the ride. Hand on the wheel, get a jump on the weekend. 40 riding shotgun, 3-day beer, dog tags, and a picture of you. Picture of you. No name, just a number. Television turned up, counterfeit C-cup, screenplay work on the side. She's playing for the long good night, but I'm keeping the engine running. Missionary drive-by, no alibi, I'm trying to picture anybody but you. Thank you. E bentornati cari radioascoltatori qui a Cacciafotone. Stiamo parlando di un argomento medico quest'oggi, in particolar modo stiamo parlando del sistema GRADE, un sistema che abbiamo definito come un sistema di controllo di qualità in campo medico. Ne stiamo parlando col dottor Corrado Barbui, psichiatra presso l'Università di Verona. Ecco, dottor Barbui, noi all'inizio della trasmissione abbiamo provato a definire che cos'è il sistema GRADE per sommi capi. Però entriamo un pochino nel dettaglio. Il sistema GRADE è un sistema di controllo, ma non sarà né il primo né l'ultimo. Ce ne sono stati prima di sistemi di controllo e ce ne saranno dopo di sistemi di controllo. Ora, se dovesse spiegare in poche parole perché il sistema GRADE è un sistema di controllo migliore rispetto ai sistemi di controllo che c'erano nel passato, lei come lo spiegherebbe? Sì, come detto, il GRADE è una metodologia per costruire delle linee guida, cioè delle raccomandazioni che i medici possono usare nella pratica clinica. Queste raccomandazioni e linee guida da dove vengono tratte? Vengono tratte dagli studi che servono per dire che è meglio un determinato farmaco rispetto ad un altro o che è meglio un determinato percorso terapeutico rispetto ad un altro. Ora, il metodo GRADE permette di riassumere, diciamo, in modo critico, in modo analitico questi studi, queste sperimentazioni sull'efficacia dei trattamenti e di quindi produrre una sorta di riassunto di che cosa dicono questi studi sotto forma di evidenze o linee guida, attraverso un percorso che ha il merito di essere trasparente. Trasparente vuol dire che ogni tappa che porta alla linea guida, alla raccomandazione, viene in qualche modo codificata e registrata. Mi permetto di aggiungere una cosa: perché è importante che il processo sia trasparente? Perché si è visto che nel corso degli anni le linee guida che venivano formulate erano influenzate solo in parte dagli studi che permettono di stabilire l'efficacia dei trattamenti, ma in molta parte erano influenzate da altri interessi, per esempio da interessi commerciali, per esempio dall'interesse di promuovere determinati farmaci, a prescindere che fossero effettivamente utili. Allora si è detto, beh, ma queste linee guida non vanno bene, queste linee guida non fanno l'interesse delle persone. Per costruire delle linee guida che facciano veramente l'interesse delle persone è necessario che la procedura che si segue sia molto limpida e trasparente, perché deve tutelare gli interessi delle persone. Il GRADE vorrebbe rispondere a questo problema. Ecco, dottor Barbui, lei è stato chiarissimo a spiegare il GRADE nella prima parte della trasmissione, però a questo punto vorrei che entrasse meglio nel dettaglio. Perché fondamentalmente il GRADE è un sistema matematico, un algoritmo, e quindi, come tutti gli algoritmi, ha una serie di passaggi. Ora, quali sono i passaggi che segue il GRADE? Cioè, quali sono i passaggi a cui deve essere sottoposto una risposta medica per verificare se questa risposta ha una qualità alta oppure ha una qualità bassa? Essenzialmente il GRADE ha alcune tappe. La prima tappa è quella di capire su che cosa si vuole formulare la raccomandazione, quindi focalizzarsi su una domanda alla quale rispondere. Dopodiché la risposta passa attraverso, diciamo, essenzialmente quattro tappe. Una tappa è: andiamo a prendere tutti gli studi che in qualche modo hanno cercato di rispondere a quella domanda. Perché bisogna averli tutti? Perché è importante fare un'analisi di questi studi, prima tappa, bisogna averli. Seconda tappa, bisogna vedere che questi studi, al di là delle conclusioni che raggiungono, bisogna stabilire che questi studi siano di una qualità sufficiente da un punto di vista metodologico, perché, ahimè, gli studi possono essere molto ben fatti, ma anche molto mal fatti. Allora, non solo bisogna andare a vedere cosa dicono gli studi, ma bisogna anche andare a verificare che la qualità di questi studi sia accettabile. Seconda tappa. E gradare la qualità delle informazioni, da cui il nome è GRADE. La interrompo un attimo. Cosa vuol dire uno studio di qualità rispetto a uno studio di non qualità? Come si definisce la qualità di uno studio? Questa è una domanda da $1 milione, perché la risposta è molto difficile. Per esempio, uno studio di buona qualità è uno studio fatto con molti pazienti, con molte persone che soffrono della malattia, perché uno studio con poche persone potrebbe dare dei risultati difficilmente generalizzabili. Uno studio con tante persone dà dei risultati più vicini alla verità, più generalizzabili. Uno studio di buona qualità è uno studio che dura tanto. Per esempio, se studiamo una malattia cronica, lo studio deve durare tanto, anni se possibile. Quello è uno studio di buona qualità. Se dura settimane, è uno studio di cattiva qualità. E ce ne sono altri, potremmo entrare nel merito della qualità degli studi. Esistono dei criteri del disegno dello studio, dei criteri sull'analisi dei dati raccolti, eccetera. Ma questi aspetti qui devono entrare nella valutazione, altrimenti il rischio è di mettere tutto sullo stesso piano, e questo è un errore che in passato è stato fatto e che poi porta a produrre delle raccomandazioni che non rispecchiano con fedeltà le evidenze sottostanti. Ecco, mi scusi l'interruzione, a questo punto andiamo sugli ultimi due punti, che sono poi i punti conclusivi del grade. Sì, avevamo detto 4 punti, gli studi, avere gli studi, la qualità degli studi. Però la raccomandazione non è figlia soltanto degli studi, è figlia anche di alcune scelte di campo che chi prepara le linee guida fa. Quindi si dice che la linea guida è figlia anche delle preferenze, dei valori che il gruppo, in questo caso dei produttori della linea guida, si dà. Questo è il terzo tassello. A parità di evidenze uno può decidere che un valore è, come dire, avere un farmaco molto efficace, questo è un valore. Un altro valore potrebbe essere porre l'accento sulla tollerabilità di un farmaco. Questa è una scelta che si può fare. Quarto tassello, la fattibilità. È inutile costruire delle raccomandazioni che non tengano conto della fattibilità. La fattibilità ha a che fare con aspetti di risorse. È inutile in un contesto con scarse risorse raccomandare degli interventi che richiedono, per esempio, delle apparecchiature molto sofisticate. Se queste non ci sono, questo è un elemento vincolante. Al di là delle evidenze, al di là degli studi, bisogna tenerne conto. Ecco, dottore, facciamo un esempio. Alla domanda "il farmaco X funzionerà per alcune malattie cardiovascolari", si attua il sistema GRADE e si cerca di vedere se la risposta è positiva o negativa. Ecco, ci sono varie scale di positività e di negatività, e queste scale sono graduali, come cerca di farci vedere il sistema GRADE. Sì, di gradualità delle evidenze, quindi degli studi, delle conclusioni degli studi che portano a dire questo nuovo trattamento per le malattie cardiovascolari ha questa efficacia, e la qualità degli studi che hanno portato a dire questo è buona, poniamo. Dottore, lei ha detto prima che prima che venisse utilizzato il GRADE c'erano altri tipi di sistemi, ma che invece questi altri tipi di sistemi erano figli di altri interessi, interessi che magari non erano quelli della qualità, ma erano interessi di tipo privatistico. Ora, quali erano i principi su cui si basavano questi altri sistemi che venivano utilizzati prima? Erano principi che avevano a che fare con i conflitti di interessi che chi produceva le linee guida avevano. Se io sono un produttore di linee guida e ho degli interessi commerciali a promuovere un trattamento perché io ho degli interessi nella ditta, poniamo, che produce quel trattamento, è chiaro che questo influenzerà la mia pressione a raccomandare quell'intervento. Ma l'interesse non è solo di tipo commerciale, è anche un interesse di tipo intellettuale. Se io, per esempio, sono uno psicoterapeuta che ha sviluppato un nuovo intervento psicologico e voglio produrre una linea guida, proprio perché intellettualmente quell'intervento psicologico è frutto della mia lavoro, cercherò di sponsorizzarlo al di là delle prove che effettivamente funzioni. tutto questo non va bene, perché tutto questo produce delle linee guida storte che non fanno realmente gli interessi delle persone. Allora si è detto: proviamo a rendere il meccanismo più trasparente, no? E anche più criticabile, perché nel momento in cui è trasparente ciascuno può andare a vedere le tappe e dire: ma qui come mai è stata fatta questa scelta? Dottore, tutti questi ovviamente sono degli studi statistici, è un po' brutto dirlo, però questi sono degli studi di popolazione, quindi quando si va a verificare se un farmaco oppure un trattamento funziona oppure no, si fa uno studio di popolazione. E nello studio di popolazione si incassa bene il fatto che il grade è fondamentalmente un sistema statistico che non fa nient'altro che mangiare i dati e regalare delle risposte. Ora, per fare una cosa del genere ci vuole un programma. Questo programma esiste, è stato creato da coloro che hanno inventato il sistema GRADE, cioè il GRADE Working Group, ma da dove si può scaricare e come funziona questo programma? Beh, il software l'ha creato il gruppo di ricercatori che hanno sviluppato la metodologia GRADE. Il software è free, quindi si può scaricare liberamente da internet, fra l'altro in qualsiasi motore di ricerca basta scrivere GRADE, o meglio ancora GRADE Working Group, cioè il gruppo di lavoro GRADE, e si arriva alla homepage di questo network e si può scaricare anche il software. Il senso del software è di facilitare la procedura di costruzione e di riassunto delle evidenze. Come diceva lei esattamente, si mette dentro tutte le informazioni e il software ne dà come risultato una specie di riassunto dell'efficacia dell'intervento oggetto dello studio e anche della sua qualità. Perfetto, per adesso a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte abbiamo parlato del GRADE, che cos'è e come funziona, mentre nella seconda parte analizzeremo il suo paper uscito qualche giorno fa su PLOS Medicine e cercheremo di capire come il sistema GRADE possa essere utilizzato anche per i disturbi di tipo mentale. Musica e poi a dopo. She says, let's get out of town. I think I'm coming down. She got a running tab at the RM Pharmacy. We hit the interstate and she's passing Valentine's. But she don't understand, I'm just killing time. Where the stars reside, I just vacation. In the space between this place and the flip side. Bentornati a tutti cari radioascoltatori, siete sempre all'ascolto di Caccia Fotone e quest'oggi stiamo parlando del sistema GRADE, fondamentalmente un sistema di controllo di qualità in campo medico. Ne stiamo parlando col dottor Corrado Barbui, psichiatra presso l'Università di Verona, e ne stiamo parlando con lui fondamentalmente perché qualche giorno fa è uscito su PLOS Medicine un lavoro di cui lui è il primo autore, in cui si cerca di analizzare se il sistema Grade sia adatto per verificare l'efficacia delle cure non in campo medico generale, ma in campo medico nelle malattie psichiatriche. Ora, questo io lo ritengo un lavoro molto, molto interessante, però per noi lettori, semplici lettori, è molto facile. Andiamo su Plus Medicine, ce lo scarichiamo, sono 8 pagine, però 8 pagine sono un sacco di lavoro. Quanto lavoro ci è voluto per realizzare queste 8 pagine? Certo, è un lavoro di un gruppo di persone, di cui io sono solo uno, gli altri colleghi sono colleghi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che avevano e hanno l'esigenza di produrre delle raccomandazioni trasparenti sulla cura delle malattie mentali. E il lavoro è ancora in corso. Per rispondere alla sua domanda, è circa 2-3 anni che lavoriamo alla metodologia e all'utilizzo della metodologia per la produzione di queste raccomandazioni. In un ambito come quello della cura e del trattamento delle malattie psichiatriche e mentali, che è molto delicato, molto importante, dove c'è uno scollamento incredibile tra la possibilità di avere delle cure, di avere dei trattamenti, e il fatto che queste cure, questi trattamenti, in alcuni paesi del mondo molto raramente vengono effettivamente dati. Ecco, dottore, come avete fatto esattamente a definire che il sistema Grade funziona per verificare l'efficacia dei trattamenti nel campo delle malattie mentali? Perché la mia idea è che i confini rispetto alle malattie, tra virgolette, molto tra virgolette comuni, sia molto meno definito. Nel senso che, per esempio, mi dovesse far male una gamba, ci dovesse essere un trattamento tale per cui, se utilizzo quel trattamento, mi passa il dolore alla gamba, allora attraverso il sistema Grade posso avere una risposta tale per cui mi dice che quel trattamento funziona oppure no. Ma nelle malattie mentali il confine è leggermente più frastagliato. Ora, in che modo quindi avete utilizzato Grade? Certo, studiare l'efficacia dei trattamenti in ambito psichiatrico ha delle difficoltà aggiuntive rispetto ad altri ambiti della medicina. Tuttavia si usano delle metodologie molto simili. Torniamo a dire quello che dicevamo nella prima parte della trasmissione, sugli studi che servono per dimostrare che un trattamento funziona. Ci sono dei problemi aggiuntivi. Uno è quello che menzionava lei, cioè che i confini del disagio psichico e quindi della malattia possono essere più difficili da delineare rispetto a un'altra patologia. In un'altra patologia si può fare un esame del sangue, se uno ha la glicemia molto alta, ha il diabete. Da noi non c'è una glicemia che mi permette di dire che una persona ha la depressione o che ha un disturbo ben più grave, come potrebbe essere la schizofrenia. Questo non c'è, quindi questo è un grande problema. L'altro grande problema è che le malattie psichiatriche sono malattie cosiddette che durano molto, e quindi gli studi fanno fatica a studiare l'efficacia dei trattamenti sui lunghi periodi. Ecco, quali sono quindi gli altri problemi che avete incontrato applicando Grade ai disturbi mentali? Esistono vari ordini di problemi. Un problema è quello che il trattamento e la cura passa dallo studio di trattamenti molto eterogenei fra di loro, non solo farmaci, per esempio interventi di tipo psicologico, per esempio interventi di tipo, come viene chiamato in gergo, psicosociale. No? Questo è molto importante, e quindi dei dati che abbiamo e quindi delle raccomandazioni sono sui farmaci, perché torniamo di nuovo, lì c'è un interesse commerciale a avere nuovi farmaci, quindi a studiarli e quindi a venderli. Viceversa, l'interesse a fare degli studi in ambito psicologico, psicosociale, è molto minore. Allora l'OMS, che dice ma noi non possiamo cadere in questo tranello, dobbiamo riuscire ad avere delle raccomandazioni, delle linee guida bilanciate che tengono conto di questo, è stato un grande problema, perché tenere conto di questo significa fare delle raccomandazioni per interventi, per esempio psicologici o sociali, dove gli studi sono molto scarsi. Ecco, dottore, in questo momento ho il suo paper sotto mano e sono a pagina 4. Ecco, a pagina 4 ci sono una serie di freccette e una serie di argomenti che ci dicono come il sistema grade debba essere utilizzato all'interno di uno studio per verificare se un trattamento psichiatrico funziona oppure no. Leggo testualmente: scoping documents, scoping questions, pico table for each scoping questions. Ecco, quale di questi punti è stato motivo di difficoltà? Il passaggio più difficile è di quegli step che menziona lei, è quello di collezionare, quello di raccogliere tutti gli studi per una determinata questione. Perché gli studi sono fatti in vari periodi, per cui possiamo avere degli studi molto recenti, ma degli studi anche molto vecchi, fatti molti anni fa. Il fatto di essere fatto molti anni fa non è detto che lo debba escludere dalla nostra valutazione. Ci sono degli studi fatti e pubblicati, quindi diffusi nelle riviste scientifiche, che sono facilmente accessibili. Ci sono degli studi che vengono fatti e non vengono mai pubblicati, cioè diffusi nelle riviste scientifiche. Ecco, il problema grande è essere sistematici, perché se noi diciamo che è importante avere, raccogliere le informazioni da tutti gli studi e che sono stati fatti, che hanno una determinata metodologia, il grande problema è raccoglierli in modo sistematico, averli tutti per poter avere una raccomandazione che sia figlia effettivamente degli studi e non solo di una parte di essi, perché anche qui c'è un problema, che ci sono alcuni studi che sono famosi, che vengono usati in prima linea a supporto di certi trattamenti, però noi non possiamo accontentarci di questo, li vogliamo tutti, vogliamo leggere anche quelli tenuti in seconda e in terza linea, possibilmente anche quelli tenuti nei cassetti. Spesso sono gli studi negativi, sono quelli che dicono che i farmaci non funzionano, quelli vengono tenuti nei cassetti, perché non è interesse dare questo tipo di messaggio, non è interesse commerciale. E chi ha una prospettiva invece più di salute pubblica ha bisogno di aprire quei cassetti e di includere nella propria analisi tutti questi studi. Senta, siete stati già contattati da altri gruppi per sviluppare altri lavori su questo argomento, oppure per ora vi state muovendo da soli? Ma la grande sfida adesso è arrivare a definire queste raccomandazioni, che sono raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi piuttosto importanti, e la grande sfida è poi utilizzare queste raccomandazioni per migliorare l'assistenza psichiatrica, altrimenti diventa un esercizio accademico. Chi se ne importa di avere delle raccomandazioni costruite con una buona metodologia se poi non vengono utilizzate per migliorare effettivamente la cura dei pazienti psichiatrici? Questa è la sfida che vorremmo provare a raccogliere, e quindi in contesti anche disagiati, anche di grande sofferenza da un punto di vista economico, ci sono molte parti del mondo, la maggior parte di parte del mondo che è in situazioni difficili, eppure lì è possibile con poche risorse fare dei grandi cambiamenti anche nelle cure psichiatriche. Dottore, siamo verso la fine della trasmissione, quindi proprio perché siamo verso la fine della trasmissione, le volevo chiedere di commentare un attimo un paper uscito su PLOS Medicine giusto un anno fa, quindi nel 2009, a firma di Brian Kavanagh. Ecco, Brian Kavanagh sostiene che il sistema grade non sia efficace. Anzi, a pagina 3, e cito testualmente, ovviamente traducendo, lui dice che è difficile capire come mai così tante organizzazioni utilizzi un sistema che non ha dato prove di efficacia ed ha dimostrato inconsistenza. Ecco, allora non è tutto oro quello che riluce, oppure Brian Kavanagh si basa su dati che non conosciamo? Ma la risposta è che ha ragione a criticare, perché come tutte le metodologie in ambito scientifico devono essere criticate, perché per migliorare è necessario beccare gli aspetti di sofferenza di ogni metodologia. Tutte le metodologie hanno degli aspetti di sofferenza e anche il grade evidentemente ne ha. Il grade ha il grande merito di essere, come abbiamo detto più volte, trasparente nelle sue varie tappe. Naturalmente la critica che viene mossa è che comunque c'è una componente di soggettività che rimane piuttosto importante. E quindi, di nuovo, c'è il rischio che questa soggettività si presti a delle manipolazioni. Diciamo così, la difesa da questo, in questo momento, per noi, è la trasparenza del processo, per cui chiunque può andare a vedere in modo analitico il processo seguito. Dottor Barbui, la ringrazio per la pazienza con cui ha voluto rispondere alle domande, grazie soprattutto della disponibilità, visto che so che sta facendo un po' un salto fra la stanza dove stiamo facendo l'intervista e un convegno che è appena finito. Intanto saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Calcio Fotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie dottor Barbui. Grazie a lei per l'invito.